sento già che mi sto perdendo nei tuoi occhi di mare blu. Più ci penso e più mi tormento, dentro il vuoto io cado giù. Perché questa notte non sei con me? Sto soffrendo pensando a te e vorrei che tu fossi qui con me. Mio amor, io vivo di te, mio amor, sei dentro di me, mio amor, ma tu ora non sei con me. Sufriendo, en la cama solo estoy sufriendo, en la noche aquí yo estoy muriendo, muriendo por ti. Sufriendo, locura de mi vida estoy sufriendo, y mi corazón está muriendo, muriendo por ti. Sufriendo, sufriendo, sufriendo, muriendo por ti. Sufriendo, sufriendo, sufriendo, muriendo por ti. Sta cercando, batte forte solo per te. Il profumo della tua pelle è ancora vivo qui su di me. Perché questa notte non sei con me? Sto soffrendo pensando a te e vorrei che tu fossi qui con me. Mio amor, io vivo di te, mio amor, sei dentro di me, mio amor, ma tu ora non sei con me. Sufriendo, en la cama solo estoy sufriendo, en la noche aquí yo estoy muriendo, muriendo por ti. Sufriendo, locura de mi vida estoy sufriendo, y mi corazón está muriendo.